Prologo. Fuori dall'Europa, 1555. Sulla prima pagina è scritto, nell'affresco, sono una delle figure di sfondo. La grafia meticolosa, senza sbavature, minuta. Nomi, luoghi, date, riflessioni. Il taccuino degli ultimi giorni convulsi. Le lettere ingiallite e decrepite, polvere di decenni trascorsi. La moneta del regno dei folli dondola sul petto a ricordarmi l'eterna oscillazione delle fortune umane. Il libro, forse l'unica copia scampata, non è più stato aperto. I nomi sono nomi di morti, i miei e quelli di coloro che hanno percorso i tortuosi sentieri. Gli anni che abbiamo vissuto hanno seppellito per sempre l'innocenza del mondo. Vi ho promesso di non dimenticare, vi ho portati in salvo nella memoria. Voglio tenere tutto stretto, fin dal principio, i dettagli, il caso, il fluire degli eventi, prima che la distanza offuschi lo sguardo che si volge indietro, attutendo il frastuono delle voci, delle armi, degli eserciti, il riso, le grida. Eppure, solo la distanza consente di risalire a un probabile inizio. 1514. Alberto di Hohenzollern diventa arcivescovo di Magdeburgo. Ha 23 anni. Altro oro nelle casse del Papa. Compra anche il vescovado di Halberstadt. 1517, Magonza. Il più vasto principato ecclesiastico di Germania attende la nomina di un nuovo vescovo. Se ottiene la nomina, Alberto mette le mani su un terzo dell'intero territorio tedesco. Fa la sua offerta, 14.000 ducati per l'arcivescovado più 10.000 per la dispensa papale che gli permetta di tenere tutte le cariche. L'affare viene trattato attraverso la banca Fugger di Augusta, che anticipa la somma. A operazione conclusa, Alberto deve ai Fugger 30.000 ducati. Sono i banchieri a indicare le modalità di pagamento. Alberto deve promuovere nelle sue terre la predicazione delle indulgenze di Papa Leone X. I fedeli verseranno un contributo per la costruzione della Basilica di San Pietro. In cambio, otterranno un certificato. Il Papa li assolve dai peccati. Solo metà dell'incasso finanzierà i cantieri di Roma. Alberto userà il resto per pagare i Fugger. L'incarico è affidato a Johann Tetzel, il più esperto predicatore sulla piazza. Tetzel batte i villaggi per tutta l'estate del 17. Si ferma al confine con la Turingia, che appartiene a Federico il Savio, duca di Sassonia. Non può mettervi piede. Federico riscuote in proprio le indulgenze, attraverso la vendita delle reliquie. Non tollera concorrenti nei suoi territori. Ma Tetzel è un figlio di puttana. Sa che i sudditi di Federico faranno volentieri poche miglia oltre frontiera. Un nulla osta per il paradiso vale il tragitto. L'andirivieni di anime in cerca di rassicurazione indigna a morte un giovane frate agostiniano, dottore all'Università di Wittenberg. Non può tollerare lo sceno mercato messo in piedi da Tetzel, con stemma e bolla papale in bella vista. 31 ottobre 1517. Il frate affigge alla porta settentrionale della chiesa di Wittenberg 95 tesi contro il traffico delle indulgenze, scritte di suo pugno. Si chiama Martin Lutero. Con quel gesto ha inizio la riforma. Un punto d'origine. Memorie che ricompongono i frammenti di un'epoca, la mia e quella del mio nemico, Q.